Buongiorno a tutti da Filippo Glorioso CRM 114 per chi si fosse sintonizzato in questo momento, per chi non lo sapesse lo diciamo di nuovo. Avevo parlato per circa 10 minuti così pensando di essere in diretta, in realtà siamo adesso rigorosamente in diretta. Dicevo, prima abbiamo sulla sinistra un personaggio che adesso vive a Milano, fa tutt'altro mestiere ma è stato uno speaker qui della frequenza radiofonica di CRM per 5 anni buoni dall'80 all'85, sto parlando di Antonio Calà, chiederemo a lui tra poco le sue esperienze fatte qui in radio con noi. Cosa gli hanno lasciato, che ricordi ha? Ne avrà sicuramente tantissimi. Poi invece alla destra dicevo siamo partiti con leggero ritardo perché sapete che la trasmissione va in onda all'incirca da mezzogiorno a mezzogiorno e 10. Cosa è successo in buona sostanza? Ho avuto l'idea di invitare un personaggio che fa da 6 anni televisione nazionale con una donna stupenda, devo dire. Mi sa che si è ingrassato un po', non tanto per il parto quanto perché Natale Giunta, ecco, vi ho detto il nome e cognome, grande chef ormai riconosciuto in tutta Italia e non solo, e lo è bravo non perché fa televisione ma perché lo è di suo. La televisione gli ha dato notorietà, questo è ovvio, e insieme a lui la persona che me l'ha segnalato, perché lo sto conoscendo in questo momento, sta fumando un sigaro, sembra Che Guevara, insomma, si è dato già le pazze gioie. No? C'è Dario Guarcello, ve lo ricorderete, qualche puntata fa abbiamo parlato di Michael Jackson con Dario. Dario, vi dicevo, è un personaggio veramente straordinario perché riesce a fare moltissime attività, tra queste ama molto i personaggi del mondo dello spettacolo, c'è dentro perché organizza anche lui un evento straordinario a Castelbuono, la città di vino, 3 giorni, quest'anno mi diceva Dario, saranno invece 5 giorni e forse vedrà coinvolto anche me, non si sa, punto interrogativo perché il direttore, il director manager è lui, da un momento all'altro mi può defenestrare. Allora, detto questo, io devo ringraziare gli sponsor come sempre perché qui non siamo in televisione pubblica, siamo in radio privata e quindi se non saluto i miei ospiti sono cavoli amari. Desideravo ringraziare di cuore e augurare un buon Natale col senno del poi, Rinascimento di Giovanni Guarcello e Macelleria Cusimano in piazza San Francesco 5, via Vittorio Emanuele a Castelbuono. Buono. Rinascimento perché? Intanto perché vi dà la possibilità di una vasta gamma di scelta tra corredi, tessuti, tappeti, lingerie, ricami a mano, vasto assortimento della linea culla. In questo momento sono partiti già gli sconti. Invece Macelleria Cusimano lo trovate, cioè scusate, Rinascimento di Giovanni Guarcello, lo trovate in via Sant'Anna 50 a Castelbuono. Per quanto attiene invece Macelleria Cusimano, piazza San Francesco 5, via Vittorio Emanuele a Castelbuono, carne con tracciabilità Madonita, questo è importante e mi darà adesso conforto anche l'amico chef. Perché? Perché insomma portiamo sulle tavole qualcosa di veramente genuino, gusti di un tempo ormai non li sentiamo più e invece Macelleria Cusimano la trovate ugualmente sia in piazza San Francesco sia in via Vittorio Emanuele. Alcune specialità, per esempio i tramezzini, hamburger di pollo e vitello, pollo alla diavola, polpettone ripieni, eccetera. Andateci a nome di Filippo Grosso sotto le feste di Capodanno, qualche capicollo ve lo darà. Capocollo, cioè un colpo in capo e un colpo nel collo. Detto questo, grazie a questi due sponsor, vi ricordo la notte di Capodanno. Venite sempre in maniera massiccia qui alla Villa Bar, ci sarà il Capodanno, per cui non potete assentarvi. Noi vi stiamo trasmettendo proprio dalla Villa Bar, siamo fuori sotto una tettoia vicino al bar della villa, ci ha ospitato graziosamente e di questo ringraziamo anche i titolari. Allora, prima di passare la parola a questo personaggio, al grande Dario Guarcello, una domanda per cominciare all'amico, al collega, ex collega, adesso ha cambiato anche lavoro, ma nel sangue presumo gli sia rimasto, nel suo DNA c'è sempre l'amore per un microfono e l'amore per la radio. Antonio Calà, intanto grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Senti, 5 anni di CRM. Qualcosina di più, non 5 anni perché sono partito a CRM intorno all'84-85 per arrivare fino al 94, che è stato l'ultimo anno con programmi attivi. Diciamo che faccio parte di quella radio un po' meno elettronica, meno digitale, dove Più c'erano ancora manuale. assolutamente Più sì, manuale. dove si facevano partire i piatti tenendoli con la mano e farli partire. E per arrivare alla fine, quando già qualcosa si cominciava ad avere Senti, digitale. oltre te tantissimi altri personaggi che oggi orbitano su altre emittenti radio televisive private hanno Assolutamente. fatto successo. Questo significa che CRM in 35 anni della sua storia qualcosa ha lasciato, no? Un segno indelebile. Assolutamente, anche perché siamo stati una generazione, un periodo probabilmente dal 90 in poi che è stato un periodo molto importante per CRM quando siamo sbarcati a Palermo, dove avevamo una programmazione che partiva dalle 7 del mattino, dove ahimè o comunque con molta gioia mi alzavo alle 6 e mezza per poter iniziare alle 7 le trasmissioni, quindi con tanta assolutamente voglia di far radio, di divertirci, e proseguivano fino alle 20 di sera, continuamente. So che hai cambiato mestiere, non fai più lo speaker radiofonico, adesso ti occupi di tutt'altra cosa. A Milano di cosa ci occupiamo? Ma peccato, direi, perché ovviamente la radio ce l'avevo nel sangue, come un po' quelli della mia generazione. Adesso sono direttore commerciale di una società di leasing a Milano, e quindi ho cambiato totalmente attività. Senti, a me capita spesso, non so se anche a te succede la stessa cosa, nel momento nel quale non ho un microfono in mano, mi trovo davanti a un palco, sento una radio, mi viene sempre quel magone, no? Perché non ci sono io là dietro? Ti succede la stessa cosa? Assolutamente, anche perché la radio, anche per vari motivi, viaggio molto in auto, e quindi la radio è sempre la mia compagna ad alto volume. Ascoltandolo in maniera differente rispetto agli altri. Senti, secondo te in questi anni, da quando facevi radio tu ai giorni nostri, a parte la tecnologia che è veramente andata molto avanti nel tempo, ricordo anch'io quando c'erano le cassette, no? Da mettere le registrazioni, poi, le pubblicità delle cassette. Secondo te cos'è migliorato e cos'è peggiorato rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, rispetto a quando tu facevi radio? Ma adesso la radio è diventata, i programmi radiofonici che si sentono adesso nei network o comunque nelle radio locali a buon livello sono programmi ad hoc, si cerca di differenziare rispetto a prima, dove la musica la faceva da padrone. Adesso sono più gli speaker, gli argomenti a differenziarsi, quindi c'è un'evoluzione, è diventata più spettacolo che radio, anche se poi l'essenziale e l'elemento essenziale è sempre la musica, deve passare per allietare le giornate. Ok, un'ultima domanda prima di congedarci, puoi stare con noi comunque perché presumo che sarà interessante sentire anche Nicola. Assolutamente. È importantissimo perché insomma Nicola, qua è Natale, Nicola, mi è scappato Nicola perché siamo a bere, è una cosa che mi succede ogni tanto, in pratica Amanda. No, è Natale giunta e ogni tanto qualche lapsus è... No, stavo dicendo qualche lapsus eroticus, no, invece un lapsus freudiano scappa. E beh, succede, io ho le mie venerande età, quindi consentitemi ogni tanto qualche piccola defiance su questo. L'ultima domanda: tu vivi a Milano, città di cultura, città di televisioni, no? Canale 5, insomma, è nata lì. Qual è secondo te la differenza sostanziale che ancora c'è dal punto di vista meramente culturale e mass mediatico tra Milano e Palermo, per esempio? Ma Milano io la considero una città a sé stante, una città fuori da qualsiasi altra città italiana, per tanti motivi, da un punto di vista culturale perché ormai è una città multietnica, perché comunque è una città sempre viva, una città aperta, dove è aperta verso il mondo e dove recepisce qualsiasi informazione dall'esterno. Quindi sicuramente è una città molto avanti e molto variegata, dove qualsiasi cosa si sperimenta, qualsiasi cosa si trova, qualsiasi cosa si può fare, perché tutti sono aperti alle novità. Senti, se ti dovesse capitare di fare un programma radiofonico o televisivo, se ti venisse proposto, sì, non diciamo ad alti livelli perché ormai la nostra età non ce lo consente, assolutamente, ma no. Se ti dovesse succedere di farlo, lo rifaresti? Assolutamente sì. Quindi la passione ti è rimasta tutta. Soprattutto per il microfono dietro una radio. Allora, resta pure con noi, facci compagnia se ti fa piacere. Io intanto ringrazio Antonio Calà. Prima di passare la parola al grande Natale, Natale è passato, aspetta qua un minutino che devo chiedere qualcosa all'amico tuo. Oggi è una puntata un po' straordinaria, devo dire. Che esco fuori dai canoni istituzionali, sono un po' asettico, di solito professionale nelle cose, invece oggi mi piace, vista la giornata stupenda che c'è, sto sicuro che mi fuma davanti, che è straordinario, insomma, visto il caffè che non ti ho offerto, no, adesso te lo offriamo il caffè, anzi pregherei cortesemente qualcuno del bar, sta arrivando il caffè, vediamo un attimo cosa vogliono gli altri ospiti. Allora, Dario, questa è la conferma di quello che dicevamo in radio l'altro giorno, che tu hai tantissimi amici che fanno parte del mondo dell'enogastronomia di una certa valenza, ma anche del mondo dello spettacolo a 360 gradi. Il tuo rapporto con Natale, non rapporto, adesso non fraintendetemi perché ci sono i malpensanti che con il rapporto, no, vi assicuro che Dario è felicemente fidanzato, insomma, me l'ha pure presentata, è una bella ragazza, complimenti Dario, ma a parte questo, dove se ne stanno andando? Sedetevi qua, ma dove vanno? No, era per dare l'imprimato il vostro rapporto. Come hai conosciuto Natale? Allora, bisognerebbe avere la televisione perché qui adesso succederà di tutto e di più. Sicuramente Natale, oltre a essere il personaggio televisivo e l'amico, è un fratello. No, questo non sapevo che tu avessi un terzo fratello. Noi quando ci telefoniamo ci diciamo: fratello, che fai? Fratello, come stai? Beh, questo è, fa piacere. E il nostro incontro è molto particolare perché circa 5 anni fa, quando facevo il rappresentante, sono entrato nel suo ristorante per vendergli del vino e non sapevo che lui avesse avuto una combutta con l'azienda che rappresentavo. Insomma, un bell'incontro, cioè il buongiorno si vede al mattino, complimenti. Anche quando mi sono presentato al ristorante ho detto l'azienda che rappresentavo e il maître mi ha detto attenda qui davanti la porta, e vedo uscire Natale con 2 coltelli in mano dalla cucina e mi ha detto o se ne va o l'ammazzo. Ma è così, sei così cattivo, no, così venale. Non è cattivo, avevo una motivazione, non la stiamo qua. Rispondere Natale anche, no? Cioè, tu ti sei trovato questo rappresentante della casa vinicola con la quale tu hai avuto una detetiva, no? Allora, sei uscito davvero con i coltelli fuori? No, assolutamente. No, quale coltelli, stavo scherzando. Ma ero uscito un po' arrabbiato perché c'erano stati dei precedenti che non mi sono piaciuti e quindi aspettavo prima o poi che questo soggetto passava da quella porta. Presente quando nella vita dici speriamo che qualche giorno passi da qua, e quindi quel giorno mi sono visto questa persona davanti. Quando si dice che nella vita le persone che incontri e litighi per la prima volta, poi forse ci sono di quelle storie, di quelle amicizie che nella vita te li porti dietro come messaggi positivi. E penso che questo ci lega veramente senza interessi comuni, senza veramente nulla, tutto naturale, tutto viene semplicemente con una vera amicizia. Quando si dice un vero amico, tutto qua. Natale, intanto si raffredda il caffè, vedi, basta che Sua Eccellenza chiama, Sua Eminenza ordina. Certo, è arrivato. No, mica l'ha spento, no. Certo, è arrivato il caffè dopo 45 minuti, però. Vabbè, anche voi siete arrivati dopo 25 minuti, però, insomma, il caffè ce l'avete qua. Allora, funziona, sì. Sì, siamo in diretta, non ci sono problemi. Allora, per chi si fosse messo in contatto in questo momento, ci abbiamo detto una trasmissione pre-Capodanno che è straordinaria. Vi voglio ricordare veramente la sera di del 31, venite qui alla Villa Bar perché c'è il Capodanno, insomma lo festeggiate qui in piazza, fatelo tranquillamente. E volevo anche dire a Dario Guarcello, quindi coltelli fuori dai denti e dopo vi siete abbracciati, sì, insomma avete fatto amicizia. Dopo praticamente me ne sono andato dal ristorante, ho pensato fra me e me, ho detto ma chi è questo beep che mi tratta in questo modo? Perché sennò poi, Alle 3, quando lui ha chiuso il ristorante, ci sono tornato e ho detto senti giovane, noi dobbiamo scambiare 2 chiacchiere. E l'ho detto allora siediti e mangia. Ah, vedi, ci siamo seduti a pranzo insieme. Il buon Natale, insomma, te l'ha dato prima, non quando arrivasse Natale. E da quel giorno è nata questa lunga amicizia, io l'ho visto crescere lavorativamente, perché ad altezza diciamo giochiamo tutte e due nella Nanese. È una squadra, per chi non lo sapesse, di Serie C1, futura, cioè sì, andiamo avanti. No, questo è un altro aspetto di Dario, voglio dire, ci vuole un libro veramente da scrivere su Dario, perché lui poi, oltretutto, ve lo dissi l'altra volta e lo ribadisco, è un personaggio che a Castelbuono scrive, fa la maschera non altro che una rivisitazione a modo di sfottò dei personaggi che orbitano su quel paese, per cui a questa vena artistica ce l'ha, potresti fare Zeli, che te l'ho detto un sacco di volte, come autore di testi. Allora, Natale, parliamo un attimo di te. Dimmi tutto. Come avviene questo incontro con la Clerici? Come nasce? No, con la Clerici avviene dopo l'incontro. Con il cuoco? Con la prova del cuoco, con la produzione. Ma avviene semplicemente il passaggio della vita. Provini ho fatto nel 2004, il primo anno mi hanno chiamato per fare dei provini, come chiamano tantissimi cuochi italiani o tanti cuochi italiani che vanno in questo programma, che invito da chi fa il mio mestiere naturalmente per... Se ha delle capacità da uscire fuori, è un programma a livello nazionale, quindi tutti i ragazzi ambiscono ad andare in televisione. Nel 2004 ho fatto un provino e il primo anno non mi hanno chiamato, nel 2005 ho rifatto gli stessi provini e poi da lì il percorso televisivo che continua dal 2005 con contratti rinnovati ogni anno. Siamo arrivati al 2011 tra qualche giorno con tanta soddisfazione e tanta crescita pure grazie al programma televisivo. Senti, naturalmente la notorietà, voglio dire, fa sempre piacere averla, no? Tu passi per le strade, chi vede la trasmissione ti riconosce, ma questo noto che non ti ha fatto montare la testa, sei rimasto il Natale Giunta di sempre, almeno da quello che vedo io. C'è una persona molto semplice, tranquilla, parli con gli amici come parlavi un tempo quando non eri famoso. Ma secondo te cosa succede a quelle persone che, non avendo mai avuto successo nella vita, gli arriva di colpo e di colpo stravolgono il loro modus pensandi e modus operandi? Cioè, guarda, si stravolgono il loro modo di essere. Perché, guarda, secondo te? Questa è una domanda che mi faccio spesso e che faccio spesso a qualche persona che fa il mio stesso lavoro, che conosco e che fa TV, che tu li vedi che dall'oggi al domani ci vogliono i pesi dietro, come i sub quando scendono in immersione. E questo fa sbattere la testa, perché spesso la TV ti fa credere di toccare i tetti più alti di questo cielo, invece se prendi tutto con il massimo dell'umiltà e ma ti come ricordi, un gioco tra l'altro, no? Come un gioco, e ti ricordi soprattutto che è un bel lavoro che ti sta portando benessere, che ti può portare successo, che ti può portare fama, ma bravo, devi Natale. Vivere ogni giorno come un lavoro, semplicemente come un lavoro, avere il rispetto sempre di tutti e continuare a fare quello che facevi prima, niente di più, almeno quello che vivo io è questo. Senti, la Clerici, io personalmente, pur avendo vissuto a Roma per diversi anni, non ho avuto mai il piacere di conoscerla personalmente. Da quello che si evince dalla televisione, mi sembra una mammona, cioè una donna tenera, una donna sensibile, una donna che sta attenta, insomma, alle sensibilità altrui. È così oppure dietro le quinte la maschera cambia? No, una persona meravigliosa, una persona con quale si può avere un rapporto bellissimo, che ha un rapporto bello con tutti, dai produttori all'autore, ai noi cuochi, a tutto lo staff. È una persona semplicemente straordinaria. Quello che vedo io e che vedo da 5 anni e che vivo in quella trasmissione. Poi sai, ognuno a casa propria, noi siamo esseri umani che siamo diversi con i propri cari, ma per quello che vedo nei rapporti lavorativi, persona fantastica. Beh, contrariamente a quello che si possa pensare da chi non vive, no, all'interno di questa scatola magica chiamata televisione, io posso dare testimonianza. Uno dei miei più cari amici a Roma era Gigi Sabani, ed era una persona stupenda. Ci vedevamo spesso al Bartania, sì, vicino al Teatro delle Vittorie, e con lui cenavo, ma si parlava di tutto e di più in maniera molto semplice, molto tranquilla. Benedicta Boccoli, un'altra mia carissima amica. Persone, voglio dire, c'è anche quel personaggio, no, che la fama lo fa sentire chissà chi, però ci sono, grazie a Dio, c'è tanta gente che lavora come te, come la Clerici, come Pino Insegno stesso e tanti altri, che l'umiltà, insomma, ce l'hanno, perché sanno che è un mestiere come fare il medico, come fare l'ingegnere, solo che lì hai più notorietà rispetto agli altri, ma per il resto è tutto uguale. Io mi fermerei, ti fermerei un attimo qui, perché devo dare la linea a Toti, alla regia, e ringrazio quindi la parte tecnica anche Toti. Riprendiamo subito dopo un'altra volta con il grande Natale Giunta, anche se, come dice il mio amico Dario, giocano nella Nanese, che è una squadra di terza categoria. Linea a Toti! Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. Right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's I know we said things, did things that we didn't mean. And we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside. Pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Tied to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love. Come on, come on. Siamo di nuovo in diretta a Radio Puglia, vi ricordo CRM Pirelli 101.4, i telefoni 423456. Per chi, e già lo fanno, vuole sintonizzarsi online su internet, può farlo all'indirizzo www.crmepiradio.it. A questo proposito mi hanno detto notizie dell'agenzia qui sul tavolo che ci ascoltano addirittura da Genova, li ringrazio e li salutiamo tutti quanti, io, Dario e Natale. Stiamo parlando di uno dei più grandi uffici che abbiamo in Italia, l'Ambrofin, e saluto Toni, saluto il dottor Marano e salutiamo la signorina Melissa. Allora, buon lavoro a voi, buon ascolto e torniamo rigorosamente qui a parlare con l'amico Natale e anche con Dario Quarcello. Allora, Natale, dimmi tutto. Tu sei uno chef, so che hai preparato una chicca quest'anno, sei stato il primo l'anno scorso a fare il Capodanno dentro il Politeama. Il Teatro Massimo. Il Teatro Massimo. Quest'anno invece ti sei inventato, da buon insomma cittadino di mare, ti sei inventato una chicca veramente deliziosa. Sì, l'anno scorso ho avuto il piacere, l'onore, il privilegio di cucinare in uno dei teatri, dicono che è il terzo teatro più bello al mondo e ne sono convinto. Il 31 al Teatro Massimo, per la prima volta nella storia del Teatro Massimo si è potuto fare un evento simile, che è stato meraviglioso. Quest'anno diciamo che volevo ripetere l'occasione di fare una cosa diversa, una cosa... Entriamo nei dettagli, cosa ti sei inventato? Mi sono noleggiato una nave che arriverà domattina a Palermo, dove per la prima volta nella storia palermitana circa 1000 persone potranno avere il privilegio di entrare al porto di Palermo e partecipare a questa bellissima manifestazione. Diamo un'anteprima, so che non si fa mai, è una sorpresa, non ti dico i piatti più prelibati, ma un secondo cosa abbiamo preparato? Un'anteprima del menù, vorrei dare un'anteprima, prego, secondo me, di tutta l'organizzazione, perché prego, ma ci mancherebbe. È interessante perché stiamo dando l'opportunità a chi viene il 31 di entrare in macchina all'interno del porto di Palermo, parcheggiare all'interno della nave, salire in ascensore nei saloni, può avere la possibilità di cenare, avere la possibilità, chi vuole restare a dormire, di dormire, di fare la colazione, di fare il brunch. Insomma, hai inventato una crociera da fermo. Ho inventato una piccola crociera da fermo con mille partecipanti, dove penso che domani ci sarà una grande serata. Ci sono circa 9 DJ preparati per la serata, 2 gruppi che suoneranno durante la cena, un gruppo che suonerà, aprirà l'anno nuovo, di 9 elementi che suoneranno prima della mezzanotte e durante la mezzanotte, dopo si alterneranno 9 DJ fino alle 5 del mattino, e quindi penso che sarà una serata interessante. Tanta sicurezza, quindi non è il Capodanno pericoloso, perché quindi anche i ragazzi possono partecipare tranquillamente, anche i bambini, sì, che sono assolutamente dei, assolutamente sì, abbiamo diverse, abbiamo un baby parking aperto, abbiamo le camere che possono andare a dormire, abbiamo tante situazioni. Poi prima di entrare all'interno dell'area portuale ci sarà un controllo molto serrato, anzi ringrazio per questo l'autorità portuale, il presidente dell'autorità portuale e tutti quelli che stanno partecipando e hanno dato parere positivo a questa manifestazione e hanno aperto le porte, apriranno le porte alla città, al porto di Palermo. Oh, tu sei intanto consentimi di dire che è una idea brillante. Grazie. Perché no, è brillante e unica nel suo genere, io credo, alla vostra. Ma vedete, io devo parlare, questi bevono con la cannuccia, ma vi rendete conto, ragazzi? Ci vorrebbe la telecamera. Adesso poi Natale non vorrei che sbagliasse, che andasse a finire il bicchiere con il sigaro e succhiasse il liquido con il sigaro anziché con la cannuccia, sarebbe una cosa straordinaria. Però a parte le battute che ogni tanto ci vogliono, ve l'ho detto, non è una puntata come al solito mio, parliamo di cose serie, sì, ma bisogna essere anche un po' sul faceto, perché sennò qui rischiamo di fare le cose troppo sul serio. Allora, dicevo, è stata un'idea brillante, un'idea io credo ottima, perché tu mi insegni che i vari gota, no, del mondo della cultura, del teatro, del cinema, della televisione, insomma, si possono permettere il lusso di fare dei veglioni a un certo livello. Molta gente, ahimè, con la depressione economica che abbiamo in questo momento, che sta investendo tutta l'Europa, tutto il mondo, ma soprattutto il nostro centro sud Italia, c'è gente che non se lo può permettere. Quantomeno una fascia molto più larga rispetto ai gota, rispetto ai jet set di Palermo, quindi della Sicilia, c'è gente che può avere la possibilità di passarsi una serata di gran gala non spendendo poi eccessivamente tanto, vero? Assolutamente, abbiamo fatto diverse opzioni, puoi spendere una cifra importante per fare la cena di gala, puoi spendere una cifra inferiore per fare una cena di livello ma non con tante portate, puoi venire per il dopo cena a divertirti, a cercare di fare quattro salti ad aprire il nuovo anno. Non in padella, eh? No, quattro salti in padella. No, poi noi cuciniamo in modo espresso, senza precotture, senza conservazione. Con tutto il rispetto di quelli che fanno grazie. Ma perché ognuno si cucina come vuole. Assolutamente. Bene. E quindi possiamo dare l'opportunità, e stiamo dando l'opportunità a tutti di partecipare a questo meraviglioso evento, dove le adesioni sono state strepitose. Abbiamo aperto perché abbiamo avuto le autorizzazioni il 21, quindi in pochissimi giorni abbiamo riempito e abbiamo venduto tutti i biglietti, abbiamo pochissime prevendite ancora in giro, e poi domani faremo questa. La tua presenza è d'obbligo? La mia presenza è d'obbligo, e da domani mattina alle ore 7 fino a giorno 1 alle ore 7, quindi 48 ore di fila, insomma, saranno una bella maratona, perché queste maratone si fanno e devono essere sorvegliate da chi come me è titolare di un'azienda che ha tantissimi dipendenti e deve garantire la buona riuscita. Beh, ne va del buon nome, tra l'altro, no? Quindi io dico sempre, chef, ci metto la faccina, a prescindere dallo chef, a prescindere, perché non faccio solo lo chef, ma faccio l'organizzatore di eventi, ho una società di catering, ho un ristorante, quindi c'è dietro un'azienda che lavora, non solo per quello che si chiama lavoro, ma lavora pure per salvaguardare l'immagine e per creare momenti. Che è una cosa oggi come oggi molto importante, attenzione, quindi questo ti fa onore il fatto che tu ci metta non soltanto la faccia ma anche la tua dignità personale come persona. La mia azienda si chiama col mio nome e col cognome, dico sempre questa è una grande cosa, perché non c'è dietro un marchio, non ci sono dietro soggetti sconosciuti, ma c'è dietro un soggetto che tutti conoscono. Anzi, fin troppo direi, perché insomma, visto in televisione, sì. Alla fine, sì. Noi cerchiamo di mandare avanti il nome, perché oggi, dopo 11 anni di attività, 31 anni, mi ha portato solo fortuna e bene. Io ti ringrazio ancora, perché dicevo, non è facile di questi tempi una persona, un ragazzo, un giovane di 31 anni che raggiunge un certo grado di successo, sia personale che anche mass mediatico, si mantiene, voglio dire, nei toni bassi di umiltà, eccetera, pur sapendo le sue valenze lavorative ed personali quali possono essere. E questo ha permesso sì di guadagnare, evidentemente uno fa un investimento per la notte di Capodanno, ma ci mancherebbe, nessuno è fate bene fratelli, però quantomeno consente a persone che non hanno disponibilità sose di denaro di potersi divertire, giustamente in un momento dove di divertimento se ne parla poco, perché si parla sempre di soldi esborsati all'erario eccetera eccetera, quantomeno si passa una notte diversa e da sogno, ecco, da sogno rispetto agli altri giorni. Ma sai, al di là del sogno, abbiamo creato in un ponteggio di una nave, dove è il ponteggio 4 della nave, anzi ringrazio pure l'armatore e la società, che è la società Etlink, che mi hanno dato la possibilità di fare questo evento, rischiando tutti, perché sai, quando un evento è nuovo e non si è mai fatto, è un rischio per tante cose. Certo. Pure che l'esperienza, ringraziando a Dio, non mi manca, ma stiamo cercando veramente in un pontile di 2400 metri quadrati di fare divertire circa 1000 persone, quello che la nave consente di fare salire a bordo, dove speriamo di aprire e chiudere l'anno in bellezza e che il tempo sia che tenga. Guarda, insomma, il tempo domani sono previsti circa 11 gradi, non c'è prevista pioggia, quindi abbiamo previsto un ambiente riscaldato, bene. Abbiamo tutto a portata, tutto forse sotto. Senti, il menù io presumo sia quasi tutto a base di pesce, no? Il menù è a base di pesce con un secondo di carne, cioè un aperitivo al vassoio. Entrando ci saranno i camerieri che faranno un servizio food e beverage al vassoio, poi al tavolo ci sono 5 portate con un antipasto, un primo, un secondo di pesce, un dessert per spezzare, poi c'è un secondo di carne, un dessert al piatto e poi tutto il mini dessert, la mini pasticceria. Lo champagne non mancherà, le bollicine mancano. Italiano o francese? Ci sarà un italiano per iniziare e un francese per chiudere. Insomma, quindi, alla grandissima. Ecco, allora, prima cosa sono le bollicine di cedario, insomma, sono ne siamo delle... bevuti nella vita, vero Dario? Allora, no, tutti si danno delle battute, insomma. Una piscina di bollicine. Allora, domanda a Dario Guarcello, perché è un esperto enologo e ha fatto il rappresentante. No, io te lo dico perché te ne intendi, Pino. No, stai buono, non lanciare nulla per strada, perché sennò qui vi un bevone. Senti, allora, c'è una doppia portata, misto di pesce e carne. Secondo te il vino da abbinare? Ecco, lo chiedo a te, non a lui. Beh, io direi il vino che ha scelto Natale, ecco, che è la nostra chicca, ciò che noi amiamo di più, che è il prestigio di Cadel Bosco. Quindi profumo intenso, retrogusto di fragola, com'è? Perché voi esperti date tutte queste notizie e un povero ignorante come me poi resta a bocca aperta. Profumi estasianti. Estasianti, estasianti. Ecco, ho capito. E poi c'è la firma del Conte Marzotto e parliamo di Franciacorta. Non c'entra nulla con la Francia lunga, quelle che si mettono, no, non c'entra nulla. No, stiamo dando delle battute, a parte lo scherzo, è un ottimo vino, io lo Filippo conosco di fama. Stamane ho letto su internet www.lastampa.it che riporta i migliori menù d'Italia, i migliori chef d'Italia, e se si parla di Sicilia, sulla stampa oggi si parla di Natale Giunta, non lo sa neanche lui, glielo sto dando in anteprima. Beh, gli fai anche la detto stampa, vedi, insomma, ti cura anche la tua immagine sulla stampa. Dario, senti, tu parliamo un secondo di te, perché è attinente a quello che avevo chiesto prima a Natale. Tu ti sei occupato di molte cose, ti occupi di molte cose, ma il tuo amore per il vino, non nel senso che ti ubriachi, nel senso che, voglio dire, anche quando capita, certo, poi attentati in Amitardo, qua siamo a Villa Bar, ne succedono tutti i colori. Vi ricordo, a proposito delle Villa Bar, che la notte di Capodanno potete passarla qui con la Villa Bar, appunto, per divertirvi e passare una serata diversa. Chi vuole invece può raggiungere tranquillamente, anzi vogliamo dare l'informazione un numero di telefono di riferimento, un sito, qualcosa. Allora, il menu e l'organizzazione si può visionare su www.natalegiunta.it. Si può comprare ancora qualche biglietto in via Enrico Albanese 29 a Palermo. Bene. Il numero di telefono è 091 888 5171. Questo è il numero dell'ufficio, che si trova in via Enrico Albanese 29 a Palermo. Non si può acquistare domani in nave, perché non facciamo prevendite, perché tutti devono essere biglietti prima venduti, quindi ci sarà un controllo alla porta, perché non facciamo entrare persone che non conosciamo e che non abbiamo venduto direttamente noi conoscendo il soggetto. Perfetto, allora torniamo un attimo a Dario. Io ho fatto un corso online in questi 2 giorni per imparare a guidare una nave. Quindi a mezzanotte non date credito, perché preparatevi, perché salirò a bordo e vi guiderò sino in Tunisia. Mamma mia. Dipende quante bollicine ci siamo bevute. Non lo so se arriviamo in Tunisia in Costa d'Avorio. Insomma, io vi sto lasciando il timone in mano, vi lascio fare, perché vedo che siete abbastanza... No, ma noi dal prossimo giovedì ti togliamo il programma, veniamo qua io a addirittura, Natale. Addirittura, vabbè, ben venga. Se volete cerchiamo lavoro, se qualche ma radio tu già il lavoro ce l'hai, taci, lascia se lavoro qualche qualcuno radio disgraziato. Se ci sta ascoltando e qualcuno ci vuole assumere, cerchiamo lavoro. Ieri ho visto Franco e Ciccio Ingrassia, dopo c'era Ficarra e Picone e c'è Darien Natale. Bene, una bella coppia ben assortita, tra l'altro il mangiare non ti mancherà, io tu sei un esperto di vino, quindi voglio dire, tra una bollicina e l'altra si va molto lontani. Ti stavo chiedendo, in una classifica di 10 nomi prestigiosi dell'enogastronomia siciliana, secondo te i primi posti chi metteresti come produzione e qualità di vino? Allora, come produzione e qualità vino sicuramente metterei Marc De Grazia e Riannocchi Pinti. Sì. Carl Auner. Ma sicuramente il top, il number one storico resta sempre Marco De Bartoli, con il suo Bucuram passito di Pantelleria e col suo vecchio Samperi. Ci hanno pagato, giuro, ieri sera ci hanno fatto il bonifico. Un po' di pubblicità, ma stai buono per il bonifico, cosa fai capire? Hai in radio ascolto, no, è la verità, non... Siamo mica qui a fare ubriaca alla scimmia. Mi raccomando, se avete ascoltato questa frase, questa reclama, mandate il vino, poi gli diamo gli indirizzi di casa. Non dategli conto, non dategli rete. Allora, ma Filippo, scusami. Sì, prego. Mi sorge una domanda, perché... Sì. Mi piacerebbe intervistare te adesso, visto che tu intervisti sempre gli altri. È il mio mestiere. Allora, ogni volta che fai una reclama dice andate sì. a nome mio. Sì. Mi dice andate alla macelleria andassi... tal dei tali, andate sì. a nome mio. Sì. Guarda che sono andato in quella macelleria, mi ha detto che hai un conto da pagare, perché tutti sono andati a nome tuo. Vabbè, no, Dario, passati poco forte, Dario, io adesso vado a dare gli sponsor stoppole, perché tu sei pericolosissimo. Allora, tornando ad essere seri però. Dai. Come fa una persona che nel campo dell'enologia e di un'ignoranza caprina a capire se un vino è buono e va bevuto e un vino invece è piuttosto scadente e va escluso? Allora, quali sono le caratteristiche di un buon vino? Ecco. Ora mi hanno tolto il cappellino. Ecco, ti hanno messo la sciarpa, sembri un vecchio di 90 anni. Ma dai, allora, sembra un pescatore di altri tempi, ma dai. Allora, ragazzi, dovreste vedere. Siamo seri un attimo. Non si può, però. Bin Laden ti può venire, fratello maggiore. Andiamo avanti. Allora, cugino. Praticamente io seguo la linea che ha adottato Luca Maroni, che sì. è uno dei più grandi in Italia nel settore enologico. Lui sostiene che ognuno di noi ha un amore particolare verso il nettare di Bacco. Ognuno di noi ha la possibilità di capire se un vino gli piace semplicemente odorandolo, perché se il nostro naso non ama l'odore di quel vino, sicuramente quel vino gli farà male, indipendentemente da come sia stato fatto, perché il corpo lo rifiuta. Quindi basta fidarci soprattutto del nostro delle naso. Delle narici, quindi. Sì, dell'olfatto. Allora, ti fermo un secondo, do due sponsor, poi do la linea di regia per una breve pausa musicale. Riprendiamo con le ultime battute con Natale e Dario. Pronto in tavola della Geciba di Baggi Salvatore, via Geraci 123. Gusti e sapore delle Madonie, paste pronte, paste fresche, paste ripiene, catering e banqueting, prodotti tipici locali. Cuochi volanti, ogni qualvolta mi si dice cosa sono questi cuochi volanti, qui ne ho uno, ma adesso vi spiego cosa si intende. Se vostra moglie per le feste principali gli dà fastidio cucinare e stanca, basta telefonare al pronto in tavola Gagiba di Baggesi Salvatore, ragazzi non mi fanno stare seri oggi, vi arriverà a casa vostra il catering comprensivo di cuochi, vi cucineranno tutto, vi apparecchiano eccetera eccetera, voi mangiate tranquillamente, dopodiché vi sparecchiano tutto e si portano via tutto. Poi dicevo, i gusti sono particolari delle Madonie, quindi gusti esclusivi, non si trovano più in giro molto facilmente. Ricordate, pronto in tavola di Gecipa di Baggesi Salvatore, via Geraci 133 a Castelbuono. Se invece volete arredare la vostra casa con gusto, con mobili anche su misura, sito Mobili Artigiani in Castelbuono, via Geraci 21, telefono 0921 676150 677520. Intanto stanno rompendo i bicchieri a forza di fare bollicine e cincin, queste due insomma sclerotici che sono Natale Giunta, insomma, che è un personaggio televisivo ma non si sta contenendo per nulla. Andiamo avanti con Visione Abbigliamento. Allora, dillo tu questo, dai, Visione Abbigliamento, su, dai, dillo tu Natale. No, perché poi ti devo mandare la seconda fattura, già la prima l'hanno inviata stamattina. Vi parlavo quindi di Visione Abbigliamenti, Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, telefono 0921 680202, Gangi, via Nazionale, telefono 0921 689830. Firme prestigiosissime, abbigliamento uomo-donna delle marche più prestigiose. L'inverno si è appena presentato in maniera molto rigida, a parte qualche giornata di sole, ma per il resto molto freddo, soprattutto la sera. Quindi recatevi su questi due negozi, comprate tranquillamente marche prestigiosissime, ma soprattutto piumini che vi riscaldano il cuore, e vestiti in pure lana vergine che veramente fanno sentire all'altezza della situazione. Possiamo andare sempre gratis. Chiudiamo con Arrediamo, nuovo showroom Berloni in via Brancati 2 a Cefalù, arredamento e progettazione di interni, cucina Berloni completi elettrodomestici a partire, pensate, da 3.900 euro. 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Per maggiori dettagli visitate il sito arrediamo.berloni@libero.it. Linea un attimo alla regia per un brano musicale, riprendiamo subito dopo con i saluti. Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Non c'è? E che faccia c'è, scusa? Fabri Fibra è tanta roba,

Natale, abbiamo parlato di questo Capodanno, parliamo adesso un po' di quello che tu faresti o farai nel momento nel quale, ti auguro tra 20 anni, dovesse finire l'appuntamento con il programma della Clerici, dove tu partecipi da ben 5 passa anni. Tu hai una tua azienda, la stai portando avanti, hai un ristorante, ma se dovesse finire il discorso della televisione, cioè questa visibilità così straordinaria, che poi sai ti aiuta anche ad aprire alcune porte, no? ti aiuta a essere più esplicito con le persone, ti dà maggiore sicurezza che non essere un anonimo. Pensi di continuare per un bel po' di anni ancora nell'attività che stai svolgendo, perché credo ti dia soddisfazione, o visto che sei un tipo eclettico particolare, vuoi inventarti qualche altra cosa di nuovo rispetto alla gastronomia? Assolutamente no, io amo il mio lavoro, lo faccio da quando avevo 13 anni, ne ho 31 solo, ho sempre fatto quello, ho sempre cercato di ampliare quello che sono le possibilità che il mio lavoro e il mio mestiere ha. Facevo lo chef, continuo a fare lo chef, oggi faccio l'organizzatore di eventi, ho una società che si occupa di organizzazione di eventi, quindi organizziamo un evento chiave in mano, quindi dalla A alla Z, questo è il mio lavoro, spero di continuarlo a fare fino a che ho le forze, finché ho le possibilità economiche di investire in questo meraviglioso lavoro che mi ha dato ad oggi la possibilità di farmi conoscere in tutta Italia e non solo, che mi ha dato la possibilità di cucinare per tanti personaggi, tante persone importanti e non solo, che mi dà la possibilità di incontrare ogni giorno persone meravigliose e scambio opinioni, commenti e non solo. Quindi spero di fare solo questo lavoro nella mia vita. Io ringrazio Natale Giunta, che è stato molto esaustivo, poi è una persona molto simpatica, ve lo garantisco, io spero di averlo in trasmissione, questa volta in televisione, perché insomma, già lo vedete, ma qui in Sicilia, voglio dire, sarebbe veramente una chicca averlo lì, perché è simpaticissimo, fa uscire pazzi tutti, anche la redazione dove lui lavora, la Clerici, non so come faccio a tenerlo, però dico, fatto sta, insomma. Ti raccomando, la prossima volta pagaci, perché oggi siamo venuti così in beneficenza. Fate bene Guarcelli, raccomando, più tardi in modo riservato ti diamo i nostri conti correnti, sì, con l'IBAM, sì, tutto, perché quanto, il direttore, sì, di banca, ora appena finiamo la trasmissione mi chiamerà e mi dice: ma perché non è arrivato il bonifico? Quindi il cosa è strana, che... se non ti arriva il bonifico nostro, sì. Tu aspetta e spera che già l'ora si avvicina, non ti preoccupare. Dai, allora siamo seri un attimo, sì. Allora, Natale Giunta è un uomo fondamentalmente sembrerebbe schizzato, ma non, la realtà è perché non dorme. Ah, voi dovete, ecco, sapere che Natale tutto. Giunta non dorme, lui va a dormire alle 3, alle 5 e mezza già è pronto. Insomma, fa una vita molto sclerata. Tra sì. I nostri viaggi, c'è l'ultimo di 2 settimane fa, dove lui mi ha detto: ci vediamo alle 5 a Termini Imerese, se ce l'avevamo lasciati alle 3 e mezza. Ah, ho capito. Tu riesci a tenere questi ritmi suoi? Sì. No, io non ci riesco. Ah, meno male. Assolutamente, per questo lui è Natale Giunta, non per altro. È unico e solo. Unico, 3 ore a notte, però ho capito dove dorme. Lui prende l'aereo 3 volte la settimana, dorme sull'aereo, l'aereo non è partito, lui già dorme, l'aereo arriva ancora dorme. Beh, insomma, è un bel cullarsi sull'aereo. Guarda, ogni tanto mi dà fastidio quando atterra, dico perché altro, poi non poteva alzare. Qualche ora in più di volo non gustava. Ma soprattutto è il riposo mentale, perché il cellulare non squilla, quindi automaticamente... Ecco, non ti disturba nessuno, sei tranquillo. Perché lavora naturalmente, ma capisci bene, quando tu spegni il cellulare spegni... Col resto del mondo. Il resto del mondo, ma va bene, ci sta tutto. Dormire poco fa bene, non fa Natale, male. Natale, torniamo a essere seri, perché se non vi brillo io qui succede il patatrac. Allora, siamo sotto Capodanno, ci sono molte masse a casa che ci stanno ascoltando. Un tuo suggerimento per un piatto di Capodanno. Un piatto di Capodanno, piatto con gli agrumi e i crostacei. Inventiamoci un piatto al volo. 2 tagliolini domani a casa, se vi fate dei tagliolini freschi, 100 grammi di farina, un uovo, impastate la pasta, quindi farina 00, un uovo. Se avete 10 persone basta 1 chilo di farina 00 e bastano 8 uova intere. Impastate il tutto, la tirate con a mano, poi la tirate con nonna papera, fate le tagliatelle, andate a comprare dei crostacei che in questo periodo ci sono, con queste belle giornate, dei gamberetti, li sgusciate, fate un brodo di gamberetti che è fondamentale, prendete le carcasse dei crostacei, li mettete in padella, gli mettete un po' di sedano, carota e cipolla, mettete del brodo vegetale, e lo fate cucinare per un'oretta. Filtrate questo brodo, a parte in una padellina mettete un filo d'olio d'oliva extravergine, uno spicchietto d'aglio in camicia, mettete i gamberetti sgusciati, quindi senza le carcasse, solo il guscio, allungate con un po' di brodo di gamberetti, mettete delle zeste d'arancia, quindi la buccia delle arance, in questo periodo le arance e gli agrumi sono meravigliose, mettete le zeste dell'arancia, prendete le tagliatelle, li cucinate, li buttate in questo condimento, saltate il tutto, alla fine mettete un po' di ricotta di pecore, che in questo periodo è meravigliosa, un ciuffettino di basilico e vi auguro buon pranzo e buon Capodanno. Grazie Natale, il vino. Io volevo suggerire un secondo. Sì, suggeriamo i secondi. Prendete una padella, sì. Aggiungete dell'olio, due uova. Sei serio o stai scherzando? No, perché tu sei pericoloso. Prendete due uova, le sbattete, le fate al padellino, le servite a vostro marito, chiedete divorzio e via. E abbiamo fatto la notte di Capodanno. Vabbè, fermiamoci un secondo, io devo salutare gli ultimi due sponsor che sono Vecchi Sapori, pensate a Bivio Madonuzza per la Ria Soprana, ed è un ristorantino che è una chicca, a misura d'uomo, proprio insomma non c'è la distanza tra il gestore e l'avventore e il cliente. Chiedete tutti i piatti che volete, ma io vi suggerisco due piatti in particolare, per esempio l'antipasto, il crudo di bufala, oppure i Vecchi Sapori con ceci, trippa, fave, stigliole. Le stigliole, ragazzi, che bontà. I primi piatti vi consiglio questa volta i tortellini ripieni o i ditalini o sminuzzo con ceci, con macco di fave, che sono stupendi. Secondi piatti, ma insomma c'è veramente da scegliere, potete fare la grigliata mista oppure tagliata alla crema d'aceto. Cos'è? Ve lo fate spiegare dallo chef e dal titolare di Vecchi Sapori, appunto a Bivio Madonnuzza, Pedralia Soprana. Poi Castelbuono, per chi volesse passare un buon Capodanno o anche un sabato sera all'insegna del buon gusto, Quattro Cannoli è facilissimo, è sul corso, lo incontrate proprio vicino alla fontana dei Quattro Cannoli, lì potete fare anche scuola italiana per pizzaioli, se volete vi iscrivetevi, partecipate, perché i pizzaioli italiani sono straordinari nel mondo. E poi il forno a legna, insomma le pizze sono veramente la fine del mondo, non vi dico i primi piatti cosa sono, non ve li sto ad elencare, dovete scoprirli da voi. Andate alla pizzeria Quattro Cannoli, ristorante pizzeria, vi ripeto, troverete veramente il gusto di un tempo andato. Noi ci fermiamo qui, io devo ringraziare, vuoi fare gli auguri di buon Capodanno ai nostri radioascoltatori? Assolutamente sì, ancora auguri a tutti gli ascoltatori di CR Happy Radio, auguri a tutti, buon fine anno e buon inizio d'anno. Vi auguro un meraviglioso Capodanno a tutti, auguri veramente di cuore, che si spera sempre che l'economia si possa riprendere per tutti, che le famiglie possano avere veramente un sorriso ogni giorno per i propri cari. Auguri ancora. Grazie Natale, vai Dario con gli auguri e saluti. Auguri a tutti i nostri ascoltatori, auguri da parte mia, spero possiate fare un bel Capodanno. Noi abbiamo un altro appuntamento, però Dario, oltre Natale, tra fine mese di gennaio. Non cominciare a anticipare le cose. No, stai abbiamo tranquillo. Un altro appuntamento. Auguriamo un grande Capodanno da parte mia e, come si dice, il vostro Capodanno sarà bello se ve lo augura Dario Guarcello. Stupenda. Allora, da parte mia cosa dirvi? Non ci siamo potuti fare gli auguri di buon Natale, ve li faccio posticipati adesso. Auguro a tutti quanti voi un 2011 strepitoso, straordinario, con la speranza, come diceva prima Natale, che l'economia si possa riprendere il più presto possibile e che tutti possiamo avere un sorriso per i nostri figli, per i nostri genitori, anche se anziani. E possiate passare un Natale all'insegna della, non dico della felicità più estrema, ma quantomeno di una serata serena rispetto alle altre. Gli auguri al nonno di Natale, dice Dario Guarcella. Gli auguri al nonno di Guarcella, dice Natale. A posto, allora, prima di chiudere volevo ringraziare anche il Bar della Villa che ci ha ospitati e vi ricordo che il 31 venite tutti qui al Bar della Villa a passare la notte di buon Capodanno. Buon Capodanno a tutti, l'appuntamento è per giovedì prossimo, verrà differito invece domenica. Grazie a tutti, da Filippo Glorioso ancora auguri e a risentirci. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.